Breaking the Law, grazie ai Judas Priest. Con loro superiamo le 9 da 2 minuti, con loro iniziamo questo penultimo appuntamento di questa settimana, giovedì 15 maggio. Il benvenuto su Rock FM vi viene rivolto dalla voce di Marco Garavelli. Già che abbiamo ritrovato questo motivo dei Judas, domani, ricordo, domani notte, dalla mezzanotte alle 6, Marco Garavelli, Max Deriu, Wishing Hour e anche il mio autore di Arden Devi, cioè Simone Scavo, saranno qua presenti per tenervi compagnia 6 ore, dalla mezzanotte alle 6 del mattino di sabato, sì, ce la faremo, con il mondo hard rock, heavy metal e di più e di meno, con tante piccole rarità, curiosità, chicche che andremo a proporvi domani sera. Intanto però diamo spazio al nostro appuntamento di quest'oggi, alle nostre 3 ore che ci vedono impegnati tutte le mattine dalle 9 sino alle ore 12, con i vari compleanni del giorno, gli aneddoti rock raccontati tramite Chuck Bird nell'ultima nostra mezz'ora, il Tour de Force. Oggi regaleremo ancora biglietti per concerti, sono gli ultimi che regaliamo, quindi state attenti se volete andare a vedere questi concerti del mese di maggio. Segnatevi il nostro numero di SMS 335 100 7777, la mail marco@rockfamily.it. visto che il prossimo pezzo ci porta agli anni 50, e a proposito di nottate, il prossimo sabato 24 maggio Maurizio Faurisi, che ne ha già tenute tante di nottate, concluderà le sue nottate sabato notte dalle ore 23 del venerdì sino alle 5 del mattino con uno special di Good Rockin' Tonight, quindi tutta musica rock and roll anni 50. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy, oh boy. The whole world can see that you are a man for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy, oh boy. The whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of love makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy, oh boy. The whole world can see that you were meant for me. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The whole world can see that you were meant for me. When you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy, oh boy. When you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you. Holly con la sua Oh Boy. Saluto quindi il buon Maurizio Faulisi, grande amante e appassionato di questo genere di musica. Saluto va anche a Ivan da Monte Argentario, un saluto anche a Benny, in primi che cominciano a comunicare tramite SMS. Allora, già l'Ariere vi ha spiegato dei Queen, soprattutto più che dei Queen, del chitarrista dei Queen, Brian May. Queen che comunque usciranno con un album nuovo a settembre, poi entro la fine dell'anno verranno anche in Italia per 2 date dal vivo con Paul Rogers come vocalist. Andate sul sito di Brian May e vedete, leggete nelle news, www.brianmay.com. Tutto questo perché il nostro primo Trisdassi di quest'oggi viene aperto dai Queen con Tie Your Mother Down. Poi troveremo Heartbreaker, Led Zeppelin, mamma mia che triste, poi chiuderemo con Soldier of Fortune di Purple. Hi, this is Robert Plant and you're listening to Rock FM. This is John Lord, used to be in Deep Purple, still playing, and I know the radio station is going off the air, but all of you who are listening, keep the faith with the music, keep listening. God bless you all. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Allora, sì, un po' di emozione perché dopo questo tristassi ha fatto venire i brividi anche a me. Soldier of Fortune, Deep Purple. Abbiamo ascoltato Heartbreaker con Robert Plant, c'era anche il suo ID, c'era anche l'ID di John Lord. Heartbreaker, Led Zeppelin in apertura, i Queen con Tie Your Mother Down. Quindi saluto Spilung, grazie per complimenti. Luigi, Benny, ancora un amico che ci chiede, sono già in coda, anzi ci scrive, sono già in coda in autostrada, aiuto, come si vincono i biglietti? Beh, poi più avanti, quando li metterò in palio, basta inviare il vostro sms al nostro numero. Ancora un salutone allo Sborone, un saluto a Mau da Rozzano, la risposta è sì, Fregenhaus. E poi Dario che mi chiede se anche dopo il 31 maggio continueranno i nostri vari DJ set. Penso e spero di sì, sia per me che per tutti gli altri amici della squadra di Rock FM. Guarda, io posso dirti che il 6 di giugno insieme a Claudia sarò proprio all'Area Jens, venerdì 6 giugno all'Area Jens in quel di Pontedera Pisa, quindi magari ci vedremo in quell'occasione. Quindi un grazie ancora a tutti voi. 9:20 minuti primi, primo compleanno di questa giornata, 15 di maggio 1948, grande musicista Brian Eno, grande produttore, tastierista, utilizzava soprattutto il synth nella sua prima parte della carriera da musicista con i Roxy Music. Quindi auguri Brian Eno, che era già all'epoca veramente molto avanti nelle sperimentazioni musicali. Lui c'era in questo brano che arrivò ai primi posti in Inghilterra, Roxy Music. Il compleanno del giorno. But you make the big time. Take me on a roller coaster. Take me for an ending ride. Take me for a 6-day wonder. Don't you pull my mind side to side. Feel and make it deep. Make it 泣くぷこウィアサイナルビオ。You're so chic, deep where we love to be. Babies up the mountain streamline. Midnight you can see the floors. That's the cha-cha through to sunrise. Opens up its doors so thoughtful now. Just like the moonbows look the same. So me and you, just me too, got to search for something new. Next we're moving on, he was with me, yeah.